Va ora in onda via Marconi 40. Quest'oggi due servizi. Elisa, dal Palazzo Comunale di Barcellos, ci parlerà di radiofonia. Ilaria invece è andata a visitare Esposende, la città del mare. Tony, listen my friend. Tutti fissavano il pesante telo rosso che nascondeva l'invenzione del secolo. Ovunque, nel mondo, le radio erano sintonizzate su un'unica frequenza in attesa del grande annuncio. Via Marconi 40. Radio Fujiko. Barcelos, Portugal. Elisa, mi senti? Sì, ti sento, dimmi pure. Ci sei? Sì, mi sto recando in una sala stampa. Ok, ok, allora ci sentiamo dopo, vediamo se è pronta. Ilaria, tu? Sì, sono pronta. Esposende è un comune portoghese di circa 33.325 abitanti, situato nel distretto di Braga. La località è un importante porto di pesca ed è divenuta una meta turistica soprattutto durante il periodo estivo. È considerata una delle zone più belle del nord del Portogallo. Le spiagge sono un paradiso per gli occhi. Il mare, oltre a essere fondamentale per la pesca, è anche meta per i surfisti di tutto il mondo, con gare tenute in estate. Circondata da dune e pinete, si estende vicino al fiume Cavado e si trova nell'area del litorale di Esposende. La bandiera del comune è divisa in due colori, il blu che ricorda il mare e il giallo per la spiaggia, con al centro il simbolo della località. La località dona al calar del sole uno spettacolo di luci mozzafiato, da una bellezza quasi surreale. Vediamo se è pronta Elisa dal Palazzo del Comune con questa mostra che prende il nome di Radiofonia. Sono nella sala stampa del Comune per parlarvi di questa mostra. È una mostra espositiva dal titolo Radiofonia. Si trova a Barcelos, presso i locali del Comune. È una mostra suggestiva di una delle più grandi collezioni nazionali di apparati radiofonici che si propone di far rivivere al visitatore le vecchie atmosfere nella radio immaginaria, di valvole, pulsanti cromati, il suono della radio e dal design retro. Nella mostra sono presenti varie tipologie di radio, possono essere di dimensioni più piccole o più grandi. Era presente anche una radio che faceva riferimento al creatore Guglielmo Marconi, con la sua firma ben visibile. Le radio avevano informazioni specifiche e chiare sull'anno di costruzione e soprattutto sul paese di provenienza. Queste radio avevano una frequenza chiamata AM che metteva un simbolo o un fischio che caratterizzava il suono. Sul vetro di queste radio, con una piccola lancetta, era indicato, oltre alla frequenza, anche la città da cui queste radio trasmettevano. In tutto il mondo le radio non erano tantissime. Elisa, vociare sotto il tuo servizio, quindi immagino la sala fosse piena. Era piena questa sala? C'era tanta gente oppure è solo stata una mia impressione? Sì, c'era molta gente e molte persone fissavano le radio perché non le avevamo mai viste. Dato che i più giovani rimanevano stupiti da queste radio perché le vedevano molto grandi, mentre le persone più adulte, gli anziani, si commuovevano. Perché? Forse perché ricordavano un'altra epoca? Vabbè, secondo me sì, anche per quello. Questa mostra, come ti è sembrata? Ma mi è sembrata una mostra soprattutto interessante, molto grande, perché c'erano varie stanze, queste valvole che somigliavano a delle lampadine. Insomma, sei stata favorevolmente impressionata? Sì, sì, molto. Va bene. Grazie. Ilaria, come hai trovato Esposende? Sì, era una città molto bella. Diciamo che la cosa che mi ha emozionato di più era il mare, perché ha dei colori fantastici. Sì, purtroppo abbiamo beccato un giorno che c'era pioggia e quindi ci siamo dovuti accontentare. Quindi quei momenti in cui non c'era la pioggia, poi so che siete andati su una torre, quella dove c'è una vista panoramica e c'era il centro di ricovero e primo soccorso anche per le barche in difficoltà, anche per i naufraghi. Sì, durante l'estate questo posto si riempie sempre di molte persone, fra i turisti, i surfisti e anche i giovani che apprezzano molto le discoteche che sono qui presenti. Diciamo che per loro è una sorta di movida questo e apprezzano molto questa cosa. Sinceramente anche io. Allora quest'estate tornerai ad Esposende, magari portandoti su qualcuno di Radio Città Fucico. Che ne pensi? Sono sicura al 100% di questa cosa e grazie per la bella idea. Ah, ok. Per il momento è tutto da Via Marconi. Di nuovo la linea a Bologna. Radio Fujiko 103.6 FM. Via Marconi 40. Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.